Luoghi d'arte. Un cordiale saluto da Marco Carminati. Insomma, quest'anno con l'anno santo la Basilica di San Pietro sarà sotto gli occhi di tutti. È vero che le porte sante sono state aperte in tutto il mondo, ma la porta santa per eccellenza si trova in San Pietro. Quindi sarà l'occasione di fare una sorta di passeggiata davanti e all'interno di questa storica basilica per andare a curiosare sulle opere d'arte più interessanti che ci sono da vedere all'interno di questo grandioso monumento, uno degli edifici più grandiosi che siano stati costruiti dalle mani dell'uomo. Vorrei cominciare da quello che era stato concepito come il cartello per i pellegrini, cioè l'obelisco che si trova al centro della piazza di San Pietro. Beh, questo è già un oggetto eccezionale, è un monolite, cioè un pezzo solo di granito di Assuan, che è alto 25 metri e mezzo, quindi pesa uno sproposito di tonnellate, e venne portato a Roma dall'imperatore Caligola, che se lo prese ad Alessandria d'Egitto e riuscì a trascinarlo costruendo una nave speciale fino ad Ostia, e lì con dei lavori impressionanti venne trascinato lungo il Tevere fino ad arrivare nell'ansa del Tevere vicino a quella che sarebbe stata poi l'area della costruzione della basilica. Lì che cosa c'era? C'era il circo di Nerone. E quindi questo obelisco serviva da meta, cioè era il punto in cui i cavalli potevano girare intorno a questo oggetto. Quando venne costruita la basilica, che venne costruita accanto al circo di Nerone, perché accanto al circo di Nerone c'era un cimitero e guarda caso la tradizione vuole che San Pietro fosse stato sepolto in questo cimitero, la basilica sorse accanto all'obelisco. Nel 1500, alla fine del 500, un papa che si chiamava Sisto V, detto il papa tosto perché era uno che non voleva sentirsi dire di no da nessuno, decise di trasportare davanti alla basilica l'obelisco. Guardate che fu un problema enorme perché, per esempio, Bramante, che aveva capito che questo obelisco era un punto di riferimento, avrebbe voluto piuttosto spostare la basilica, cioè girare la facciata pur di non muovere questo monolite. Il Papa riuscì a far muovere l'obelisco con una operazione difficilissima, incaricò il suo architetto Domenico Fontana che, rischiando la morte perché se avesse sbagliato sarebbe stato ucciso, riuscì lo stesso con un sistema di argani e di scivoli a spostare di 500 metri questo monolite che venne innalzato nel 1586 e da lì, vi assicuro, non si è mai più mosso.